Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Ok, buonasera a tutti, 22.05, un'ennesima nuova puntata di Rock Wave. Stasera sono un po' emozionato, stasera abbiamo in... al piano Susanna Parigi. Buonasera Susanna. Buonasera. Hai fatto un buon viaggio? Buono, sì. Benissimo. A parte uscire dalla tangenziale di Milano. Sono cose che capitano. Susanna Parigi, sei la protagonista di Rock Wave di questa settimana. Noi presenteremo il tuo album nuovo, si chiama L'insulto delle parole. Ma l'insulto delle parole, l'insulto di parole, parliamo e arriviamo al punto che la protagonista è la parola. C'è una presentazione bellissima di Pasquale Pannella in questo. Come mai Pasquale Pannella ha deciso di presentare così il tuo album? Come mai non lo so, io spesso faccio delle discussioni lunghe con lui al telefono, ci sentiamo e condividiamo spesso questo sentirsi insultati quotidianamente dalla parola, così come viene e come ci arriva dai mezzi di informazione spesse volte. Una parola insultata è una parola che insultata quando non è rispettata nel suo significato, nella sua verità, se si vuol dire, anche se qui si aprirebbe un discorso abbastanza lungo. Oppure una parola che insulta quando è menzogna o quando è anche ingiuria, ed è violenta, no? E poi questo, come dire, mantenere le cose cambiando il nome alle cose, oppure mantenere il nome cambiando le cose. Questo, ecco, rovesciamento che crea confusione, frastuono, e le persone spesso, non prima di accorgersi di questo, come si dice, la fregatura c'è già stata. Certo, una volta si chiamava concept album. Possiamo definire un concept album anche adesso, secondo te? Sì, molti lo hanno definito così perché ogni canzone richiama proprio il tema della parola in un modo o nell'altro, quindi si potrebbe definire così. E l'idea com'è nata, come si è sviluppata? Non è stato voluto, ho iniziato a scrivere, quando poi verso metà lavoro, io ho un coautore ai testi che è Kabbalah, ormai da 10 anni. Ci fermiamo anni. Un secondo, sì? Forse, i nostri ascoltatori non sanno chi è Kabbalah, è un musicista siciliano, ha collaborato con la Carmen Consoli, ha collaborato con Battiato e ha fatto dei dischi da solista a tempo sì. fa. Sì, è uno secondo me fra i più bravi autori italiani, è partito come cantautore, sì, ha fatto 2 o 3 dischi come cantautore, è catanese. La scuola però... di De Novo, la scuola di Mario sì. Venuti, eccetera. Sì, infatti lavora molto anche con Mario Venuti e noi lavoriamo insieme oramai da 10 anni. Io arrivo sempre con la canzone scritta, musica e testo completa, quando con lui andiamo a rifinire, a vedere. Però per dirti, abbiamo iniziato questo lavoro, non sapevamo che saremmo andati in questa direzione, fino a che ci siamo accorti verso metà del lavoro che tutte le canzoni appunto avevano questo, davano questa grande importanza proprio alla parola e probabilmente era questo sentire così profondo che alla fine entrava nella scrittura delle canzoni, ecco, inevitabilmente. Cioè tu mi hai detto che già costruisci musica e parole e Kabbalah li trasforma, cosa dà, che compito ha Kabbalah? No, allora io arrivo con musica e testo, con Kabbalah facciamo un lavoro per me importantissimo, come anche gli scrittori che scrivono libri, insomma, questo occhio esterno con il quale a volte può capitare che cambiamo un singolare con un plurale o viceversa un aggettivo con un altro o un articolo se metterlo oppure no, sono cose di questo tipo, però molto importanti per quanto poi riguarda la cura del dettaglio, ecco. Questo è importante, la cura del dettaglio, la perché secondo me dettaglio. C'è molta cura del dettaglio in questo disco, non so se sei d'accordo. Tanto c'è molta per cura citare del una dettaglio. Cosa così, l'attenzione, almeno ci si prova, ecco. Sì, è il quarto album, vero Susanna? Sì, è il quarto album, primo Susanna Parigi, poi Scomposta, poi Indifferenze e poi questo qua. E Indifferenze aveva già suscitato numerosi consensi, mi ricordo, all'epoca. Ma sì, anche molti, diciamo che i giornalisti, anche sì, la critica musicale ne ha parlato molto bene. Sì, molto dalla mia parte, insomma, ho avuto sempre molto, anche con mia sorpresa, sia da una parte che dall'altra. Sì. Cioè, sai, i giornali a volte sì. più schierati da una parte sì. o dall'altra, invece devo dire da tutte le parti. Ma anche queste, le recensioni che ho letto di questo album sono state tutte positive, secondo sì, me. Sì, per adesso sì, speriamo. È una cosa... per ripetere, molto positiva lo stesso, cosa dici? Sì, non so, forse anche con Indifferenza era un album dove c'era tanto, sì, no? Perché c'era l'orchestra sinfonica di 60 questo elementi. Questo è un po' più scarno, più asciutto. Se mi faceva anche molta paura, perché venendo da Indifferenze, capito, con Tony Levin che suonava, certo, il brano di Pat Metheny, Ella De Bandini, Arestavo Lazzi, insomma tutti questi grandi musicisti. Un parterre non da poco praticamente. Sì, era insomma un disco fatto insomma con un bel vestito. E poi ecco, fare questo mi preoccupava un po', voce, pianoforte e quartetto d'archi. Ecco. D'archi è molto importante secondo voi, dà una sensazione molto particolare, a volte tenebrosa, non so se siete d'accordo, sì, ma un tenebroso malinconico, affascinante per certi versi. Guarda, hai detto una cosa perfetta, nel senso che era voluta, e ho chiesto proprio a Valentino Corvino, che ha fatto il disegno degli archi, che è degli Arché, il violinista degli Arché, proprio di, perché ricercavo, io ho fatto gli arrangiamenti per quanto riguarda tutto il pianoforte e gli altri strumenti, compresa la chitarra, però gli archi li ha scritti lui. E io cercavo proprio un richiamo intanto alla memoria, quindi alla memoria passata, di per esempio di certa musica, certo, francese, e poi una mano struggente, un po' hai detto proprio la parola giusta tu, melanconica. Facciamo un richiamo della memoria. Abbiamo scelto per iniziare, per aprire questa finestra, traccia numero 4, che secondo me è il pezzo più bello musicalmente. Io l'ho amato particolarmente perché ci sono questi archi che entrano appena accennati, e c'hai molto pato su un testo bellissimo, decisamente affascinante a mio parere. Lo sentiamo e poi ne parliamo, ok? Volentieri. Rockway, l'onda del rock. Addio. tradire e di capire dai silenzi quello che ti vuole dire, e che sarai un bambino e piangerai su lei come un fedele prega abbandonando il cuore in braccio a Dio. Ok, ci siamo, bellissima introduzione, l'apertura della finestra. State ascoltando, giustamente mi hanno fatto notare, Rockway, un programma di Maurizio Calzavara, in regia stasera il nostro direttore, Checco Galante, e poi tutto il resto, tutto il nostro staff. Salutiamo la nostra redazione al femminile, quindi la Nicoletta, la Patrizia e la Silvia che ci stanno ascoltando, che fanno proprio, danno la propulsione a tutto il programma. E poi saluteremo anche i nostri amici più avanti. Parliamo di questo pezzo, Susanna, questo pezzo decisamente, con questi archi, ma hanno un po' sentito un po' di dark, secondo me, c'è un po' di dark, non so se sei d'accordo, guarda, ma un dark fatto bene, un dark malinconico, però un dark, leggermente, l'arco dà sempre qualcosa, gli archi danno questa sensazione. A volte, dipende da come, pensa che questo brano qua è... L'idea è nata, stavo leggendo un libro di Henry Miller, Sexus, no? Sì. Dove lui parla, a me mi ha commosso tanto questa cosa, lui parla di questo matrimonio, credo che tra l'altro al di là del romanzo, che sia proprio quasi autobiografica la storia, lui si sposa con questa donna, no? Con un matrimonio talmente brutto, è fatto in una giornata con pochissimi invitati, la giornata piovosa, e allora la sera quando loro vanno a casa di un amico, lei è in cucina, va in cucina a preparare delle cose, e lui dice a questo amico: guarda, ti prego, fai qualsiasi cosa, fai l'idiota, fai il pagliaccio, ma falla ridere, perché è stata veramente una giornata triste. Allora da questo mi è venuto in mente, ecco, cosa mi sarebbe piaciuto consigliare ad un amico che potesse dire alla sua donna, alla donna che ama, quello che le donne, ora non dico tutte, ma insomma qualcuna vorrebbe sentirsi dire, ecco. Certamente. L'incisione di questo pezzo, come è nata, come si è sviluppata? L'idea, ne abbiamo già parlato, però quando sei entrata in sala di incisione, Caballa cosa ti ha detto? Come vi siete confrontati? Lì c'è stata un po' battaglia, perché ovviamente Caballà uomo... Si dice Caballà, non Caballà. Caballà uomo, io questo occhio... Ma è bello, no? Sì, perché bello, ci confrontiamo certo. in continuazione con questo linguaggio mio, molto femminile... tra l'altro dicono insomma che è un linguaggio che in Italia è stato molto poco sperimentato, anche quello della sensualità femminile, certo, no? Sì. E quindi lo sto sperimentando da un po' di tempo, non è facile perché non ho richiami, capito? Forse in certa musica non italiana. Posso intromettermi? Un po' di Tori Amos, c'è qualcosina? Certo, soprattutto il modo di suonare, sì, di prendere la tastiera, non sì, so se io sei ho iniziato d'accordo. Ascoltando Kate Bush, esattamente, Kate Bush. E poi Tori Amos sicuramente, Regina Spector. C'è molto pathos Tori Amos, anche tu ce l'hai in questo pezzo. Il pathos vuol dire suonando, secondo me. Vuol dire tanto dal vivo, infatti poi dicono anche che c'è una bella differenza anche nel vedere, però quello è un po' di tutti, certo, tra certo. Il disco, la registrazione e vederti poi dal vivo, insomma. Quindi hai parlato di questo contrasto, per modo di dire, questa serie di opinioni da sistemare. Sì, proprio di occhio femminile e di occhio maschile. Però questo è bello perché ci raccontiamo, io quello che vorrei sentirmi dire, lui quello sì, però ma ovviamente ci confrontiamo e alla fine ho sempre ragione io. Ah bene, e questa è fondamentale, se sei l'autrice di tutti no, i pezzi. No, sto scherzando ovviamente, ci sono cose però su cui non... Lui è un pochino più regolare, no? Mm. E allora a volte mi vorrebbe mettere un pochino più in riga. Un po' i freni, insomma. Un pochino freni, sì. Esatto, leggermente. E io invece allora, quando è no, dico no, questo si lascia così. Certamente. Beh, è un grande inizio, secondo me. Abbiamo scelto il pezzo, ripeto, che a me è piaciuto particolarmente. Di notte soprattutto, ha un certo fascino, certe atmosfere, creano certe atmosfere. E gli archi, ripeto, le creano le atmosfere. La notte ha a che fare col silenzio. Noi lavoriamo tanto con i silenzi, no? Non certo, musicisti, certo. Con le pause nella musica. Soprattutto è come se... a me piace tanto cercare il silenzio e ritagliare questo silenzio. Io, ahimè, sono di Firenze, ma vivo a Milano. Sei toscana, però vivi a Milano. Sì, in una città, come si può immaginare, no? Grande confusione. Non è molto silenziosa a Milano, sicuramente. No, io proprio con forza cerco di ritagliarmi dei luoghi di silenzio, perché per la musica credo che sia fondamentale. Ecco come mai notte, silenzio, hai detto bene. Sì, chiaroscuri, ce ne sono tanti chiaroscuri in questo album, a mio parere. E chiaroscuri sono una tua caratteristica, almeno in questo disco. Non so se sei d'accordo. È forse anche un po' caratteriale, perché anche Indifferenza era comunque un disco però un po' malinconico. Però c'aveva qualche slancio di più, secondo me, c'era più apertura. Chiaramente qui è un altro disco, è un'altra tematica, è un altro modo di prendere. Quasi dire musica da camera. Esattamente. Allora facciamo sentire il presunto singolo, secondo noi, che era l'insulto delle parole. È un singolo, cioè un pezzo pop a 360 gradi, un pezzo accattivante in alcuni momenti. Io... ho pensato un po' di folk, di musica popolare nell'interno del pezzo, non so se sei d'accordo. Questa specie di ritornello, questa cantilena. Un richiamo alla certa musica medievale. Sì, no? Medievale, popolare nel senso più largo del anche termine. Di testo, esattamente. Questa cantilena, questo alternarsi. Ma è interessante. Sì. Quindi l'insulto delle parole, un presunto singolo pop, se possiamo denominarlo così, è la traccia numero uno, non a caso la traccia numero uno. Pop letterario. Ecco, t'hanno giustificato. Pop letterario, un è vero. Giornalista che non sapeva dove collocarmi, perché nessuno sa mai dove collocarmi. Allora fa pop, chiamiamolo pop letterario. Sì. Però sarei la prima del pop letterario. Sì. Non c'è mai stato Non c'è mai stato nessuno, assolutamente. Lo sentiamo questo pop letterario. Blu Radio Rock Wave. L'onda del rock. Calpesteretemi, risucchieretemi, distruggerete forse. Mi abbandonerete, salirete, sputerete come strega che non piange, come zingara alle porte, come idiota pazza, come spina nella rosa. Ma io credo ancora in qualcosa. Battetemi le mani, guardate il colpo d'ali, con i piedi feriti, continuo la giostra, continuo il mio gioco, non smetto e salto, non si stanca questo cuore, continuerà la corsa, e dolendo mi segue. Non sente il rumore nell'insulto delle parole. Mi pregherete, soffrirete, chiederete, cercherete, poi vi pentirete, forse vi domanderete e di dubbio ammalerete. Belva che si pente, come lacrima si espande, chiederete scusa, poi mi cercherete senza posa, perché credo ancora in qualcosa. Battetemi le mani, guardate il colpo d'ali, con i piedi feriti continuo la giostra, continuo il mio gioco, non smetto e salto, non si stanca questo cuore, continuerà la corsa, e dolendo mi segue, non vede, non sente il rumore. diretta rockway.altervista.org. Stasera ci potete sentire e vedere grazie al lavoro delle telecamere di Roberto Baldi, grazie ad Agostino che ha portato la Susanna qui stasera e grazie a Alberto Pisco che è il nostro direttore artistico. Susanna, l'insulto delle parole, questo pezzo pop che non poteva essere pop, che non è stato giudicato pop, ma per me è un pezzo pop al 100%. L'insulto delle parole, proprio che dà il titolo a, capito, a tutto il progetto, a tutto l'album. E la protagonista, no, dice: a me mi potete far di tutto, ma io sento e credo ancora in qualcosa. Cioè, calpestatemi, tiratemi le pietre, però credo ancora in qualcosa. E io credo che oggi credere in qualcosa, non importa cosa, ma credere in qualcosa e partecipare a questa cosa significhi anche avere la consapevolezza di un'offesa, cioè che qualcosa è stato offeso. Sì. Se tu non hai mai questa consapevolezza, non riesci neanche a reagire, no? Questa è la cosa più pericolosa, secondo me, di questi tempi, la non reazione. Benissimo. Quando si parla con un musicista si chiede di solito perché il primo pezzo è stato scritto così, perché i pezzi hanno questa scaletta. Hanno questa scaletta volutamente o sono stati così messi a caso? Non mai. Non mai. No. Succede, qualche volta è successo. Perché succede? No, non nel tuo caso, chiaramente. Tutti i pezzi hanno una valenza, uno dietro l'altro, perché devono avere una valenza, essendo un concept album. Una ragione in più questa. Sì, questo non è stato il primo dell'album perché dal titolo, non per quello, ma perché ci sembrava una giusta apertura, non troppo malinconico, non troppo neanche troppo definibile, non so come dire. Allora ci sembrava una giusta apertura. Sì, esatto, per una giusta apertura, perché un pezzo non è facile, però non è nemmeno tanto complesso. Infatti. Può attrarre subito, può essere accattivante, ti entra immediatamente. Una cosa importante, secondo me, la finestra deve essere aperta, non deve essere difficoltà di entrare nella finestra, esatto. Deve essere aperta, no? Esatto. Cosa dici? Quindi l'insulto delle parole. Musicalmente come l'abbiamo costruito questo pezzo? Ma guarda, mi è venuta l'idea del clavicembalo proprio per che questo suoni mondo... te, chiaramente. Sì, sì, sì, esatto. Per questo mondo anche di testo, come dicevo prima, sì. Che richiama il medievale. Il medievale, no? Allora, sì. Poi, quindi le tue origini toscane hanno avuto un'influenza qua? Ma sempre. La Firenze me la porto proprio addosso, no? L'Arno, il fiume, questi lampioncini, fiochi. Poi Firenze è molto medievale. Io dico anche molto, per certi versi, anche molto scura. Sì. Quindi gli archi c'entrano allora. Segreta, ecco. Gli archi c'entrano allora. Sì, sicuramente. Perfetto. Allora, questo è il motivo per cui hai sviluppato questo discorso dell'insulto delle parole. L'insulto delle parole, sai, sono ora, se qui ci dovessimo mettere a dire l'insulto delle parole, sono tante cose. L'insulto delle parole è l'uso smodato dei superlativi, è come dicevamo prima, quando non ce n'è bisogno. Certo, quando non serve. Assolutamente sì, capito? Queste parole, fantastico, meraviglioso, dappertutto, geniale, insomma, lasciamo geniale a Leonardo, insomma, ecco, sì. Capito? E poi, non so, l'insulto delle parole è togliere spazio alla notizia vera, per dare spazio, per esempio, a notizie come TG delle 20, è quello importante, della sera, a servizi sui salvadanai o sugli amuleti, no? È una cosa abbastanza, insomma, voglio dire, ci sono notizie ben più importanti, sarebbero, no? E l'insulto delle parole è urlare ai bambini. I bambini si allontanano quando tu alzi la voce e così via, si potrebbe proseguire. L'insulto delle parole è anche la manipolazione della notizia. Cioè, per esempio, questo, come dice Pino Arlacchi nel suo ultimo libro, che poi Pino Arlacchi è uno dei personaggi che sta nella traccia video del CD. Del disco, esatto. Parla proprio di questo, cioè del grande inganno, cioè ci arrivano in continuazione informazioni sulla catastrofe. È una catastrofe dappertutto, tutto va male, stiamo andando sempre di più in discesa. In realtà non è così, statistiche alla mano, non è così. Però questo crea paura e crea mi fermo perché tanto che cosa faccio a fare? Tanto è tutta una catastrofe, tanto va tutto male, no? Perfetto. Mi ricordi quando parlava Gino Bartali, ti ricordi? Diceva cosa quella diceva? Frase, non c'è niente, c'è tutto da rifare. Ecco. Ecco, c'è tutto da rifare. Era quella, era significativa in un certo senso anche quella. Certo, certo. Sei pronta adesso per suonare qualcosina? Va bene, facciamo Non chiedermi parole d'amore. Perfetto, facciamo quello. Non chiedermi parole d'amore, perché l'amore non lo conosco. Nei giorni biologici del desiderio mi fa tremare la carne generosa nella tua bocca, dei tuoi occhi liquidi sempre. Spesso il mio piacere è un membro invisibile, a volte mi annoio, ma il sesso è riduzione o forse il più alto grado di sincerità. Ma la realtà non è mai all'altezza, so che hai paura di me anch'io. E non chiedermi cosa succede davvero quando due bocche perfette si incontrano e toccano il cielo, quando i pensieri si fondono e sanno che è vero, è il miracolo di un momento. Sulla tua mano io fermo il tempo. Non chiedermi parole d'amore, perché l'amore non lo conosci. Nei giorni invadenti delle parole, spesso il tuo piacere è una bocca invisibile, non basta mai, ma il sesso è riduzione o forse il più alto grado di sincerità. Nessuno sa perché siamo soltanto metà, nessuno sa o solo ti. E non chiedermi cosa succede davvero quando due bocche perfette si incontrano e toccano il cielo, quando i pensieri si fondono e sanno che è vero, è il miracolo di un momento. Tremo adesso sulla tua mano, io fermo il tempo. Ok, fino all'ultimo, l'ultima nota, che Rockwave è Rockwave fino all'ultima nota. Benissimo. Una bella versione, sempre con pathos. Io la sento sempre con pieno di pathos. È una cosa positiva. Ma sarà il fatto che sono fiorentina? E sarà il fatto che sei fiorentina, forse per questo. Che abbiamo questo carattere, dicono alcuni, un po' focoso. Beh, sì, può darsi però. Ma vuol dire, serve anche musicalmente il carattere focoso, secondo me, in alcuni momenti. Ma anche secondo me... Oddio, ci sono, sai, ci sono tanti generi, tanti tipi di musica e di fare musica. Invece c'è chi della sua, del suo essere soft ha fatto successo, sì. Ha fatto lavoro e dipende molto. Dipende molto, sì. Esattamente. C'è una fase bis polemica su questo oppure no? No, no, per niente. Esattamente no. No, come esiste Wagner, esiste Debussy. Certo, capito? Sono d'accordo con te. Per niente. Proprio. Parliamo allora, a me interessa sapere la tua carriera musicale partendo dal primo disco. Com'è nata? Come si è sviluppata praticamente? Perché io dopo il diploma in pianoforte ho fatto un po' di lavori. Hai fatto hai suonato? No, suonato in due. Prima cosa ho suonato in due tour. Uno con il primo con Cocciante. Come è stato suonare con Cocciante? Il tour della Grande Avventura. Ero prevalentemente lì, ero pianista. Ok. E lì è stato bello, primo perché ero molto piccola e ero trattata da tutti, sai, un po' come la piccolina, la piccolina. No? Per cui molto bene, mi sono trovata molto bene. E poi, insomma, che ti devo dire, grandi tour dove impari tanto, insomma, se non sei proprio scemo impari tanto perché vedi grandi palchi, grandi pubblici, come nasce un grande tour, insomma, così anche quello di Baglioni. Poi ho dovuto trascrivere delle parti proprio direttamente, perché prima, quando abbiamo fatto il tour di Cocciante, era proprio agli inizi la fase del computer, per cui dovevamo trascriverci tutto, insomma, è stato un bel lavorone. E poi invece Oltre con Baglioni, un tour mega di un anno con questo palco centrale, ed è lì che ho conosciuto Tony Levin. Ecco, un momento, chi è Tony Levin musicalmente? Un genio, sicuramente un grandissimo musicista, forse il migliore nel suo genere, a mio parere. Ma guarda, io sono d'accordo con te. A me è successo una cosa. Dimmi. Che lavorando con lui, stai quasi un anno, e sentendolo proprio sul palco, io ero sul palco e avevo addosso le vibrazioni del basso di Tony Levin, perché lo suona in modo particolare, io ti giuro che non ritrovi poi nella vita, pur bassisti bravissimi, che sono stati tanti, che abbiano questo tipo di vibrazione al basso. E vabbè, lui è per questo che è anche così famoso. Se mi è consentito, Jacopo Pastorius. Sì. Quello è un altro settore. Sì. Ritornando a Tony Levin, i recremisi, cioè il progressive ed altre cose, lui è un grandissimo bassista, ma è conosciuto anche Pat Metheny. Pat Metheny, come tutte le grandi persone, sono, se riesce a passare il filtro, perché il problema è il filtro, esattamente. Se riesce a passare il filtro, dopo loro sono meravigliosi. Io sono riuscita per miracolo, poi ovviamente, perché dovevo chiedere, lo dovevo conoscere, dovevo presentargli tutto il progetto, insomma. Certo. E dopo niente, è andato tutto liscio, insomma. Importante questo. Cioè, ti spiego, ti dico il perché. Noi abbiamo ospitato tanti band quando sono venuti a trovarci. Ci sono stati dei ragazzi di Mira che sono andati in tournée negli Stati Uniti, hanno fatto 6 date e si sono saliti sul palco, li hanno chiamati, hanno cominciato a suonare. Non è che loro erano americani e loro erano italiani da una parte, no, hanno chiamati, hanno suonato assieme subito, immediatamente, senza neppure conoscerli, bastava una nota. Certo. È un altro modo di concepire la musica, allora. Molto, sì. Vero? Sì. Ma qui in Italia tante cose sono, insomma, sono diverse, le si sanno. Anche per esempio le collaborazioni. Esattamente. Ora un pochino di più sì, sta nascendo qualcosa, ma fino a qualche anno fa guai parlare di una collaborazione fra anche grandi artisti, no? Grossi nomi, insomma, era difficile. Ora, visto che i tempi economici sono quelli, allora si uniscono le forze. Invece dovrebbe essere una cosa più di spirito, cioè certo, è una cosa molto bella al di là dell'aspetto economico, no? Perché l'orticello deve essere coltivato sempre da soli, infatti. Non è giusto, deve essere ampliato l'orticello. Infatti. E questo è il discorso, questa credo, è la musica al 360 gradi. Credo molto nella ricchezza, certo, delle collaborazioni. E all'estero ragionano così, in Italia un po' meno, giustamente, sì, come hai detto te, c'è questa apertura grazie alla crisi, c'è questo sviluppo, sì, però sarebbe stato meglio anche oltre la crisi, prima della crisi. Questo dicevo. Esattamente. Non doveva nascere da un'esigenza, da un impulso esterno, economica, esatto, ma invece proprio perché arricchisce tanto. Sì, esattamente, arricchisce. Quindi mi hai parlato di questa tournée con Baglioni che ti ha arricchito sempre di più praticamente. Sì, un altro anno, questo tour col palco centrale proprio enorme, non so quanti tecnici ci lavoravano, e quindi è stato sì una proprio una roba, come posso dirti, un fuoco, un'esplosione, perché sai, venire dal conservatorio, no? Certo, certo. E poi niente, poi da lì ho conosciuto il mio primo produttore, Vince Tempera, e da lì poi sono nati i dischi. Un altro grande Vince Tempera, grandissimo, sì, musicista straordinario, che ha cominciato con i dischi progressive, con i primi anni, fine anni 60, inizio anni 70, adesso collabora con un po' di tutti, però è un grande arrangiatore, possiamo dirlo questo? È arrangiatore, sì, produttore, perché poi esatto. Ha prodotto tantissimi artisti. A lui, ecco, devo una cosa che mi ha molto protetta, nel senso che la mia musica, non ha mai permesso, e questo in tempi anche tipo 10 anni fa, quando ho iniziato, era facile, no, che la multinazionale ti imponesse delle cose. È vero. Invece lui ha sempre, nel bene e nel male, perché poi magari avere anche delle influenze, dei consigli poteva anche far molto bene. Non che non accettava, per carità, però lui, per dirti, no? Sì. Se nell'arrangiamento volevano cambiare un accordo, un rivolto di un accordo che io avevo messo, lui si arrabbiava, dice no, se ha messo questo dobbiamo mantenere questo. Quindi ti ha dato l'indipendenza, l'indipendenza e, se vogliamo, anche un po' la libertà. Certo, che non è semplice per i musicisti emergenti, è molto difficile. No, per assolutamente niente. Improbabile, per molto niente. Improbabile, se è consentita l'espressione. Ma sai, anche al di là dell'inizio, anche dopo, perché io dico, persone, per esempio artisti che hanno molto da perdere, anche in senso economico, perché hanno un pubblico enorme, certo, e non possono mai essere, non rischiano, mai essere, in questo senso io dico che io almeno ho questa, chiamiamola nicchia di pubblico, anche se a me non piace la parola, però mi permette di non avere troppi vincoli. Non abbiamo nessun vincolo neanche noi, e sentiamo un altro pezzo allora, cosa dici, al piano? La fiorista. Perfetto. Questa è la mia vita, un intenso teatro dal vero, un potente richiamo del fuoco, con grandi felicità e tragedie, emozioni in diretta, senza pause o riposo. Questa è la mia vita, in questo quartiere di burla, dove tutto è fatica, ma si resiste con una risata e si parla una lingua antica. Antica, ecco, ora respiro, cammino, parlo, osservo, ascolto, penso, prego e rabbio, amo. Queste le mie mani preso parole da dentro per poter modellare il silenzio, senza qualcuno che parli per forza, senza qualcuno che voglia capire, ho aperto la porta. Questo è il mio talento, lavorare di notte in silenzio, come chiesa che espande lo spazio, con le pietre e gli affreschi che parlano e cantano e annullano il tempo. Ecco, ora respiro, cammino, parlo, osservo, ascolto, penso, prego, arrabbio, amo. Questo è il mio potere, devo solo pensare all'abete, al profumo di resina e cera, tra inni d'incenso e preghiere, è come una pace chiedere scusa per tagli e ferite. Ora sono forte, sono invasa dai sensi del mondo, ho provato il dolore del mondo, questo è il mio privilegio, ho già perso, ho già dato e non mi aspetto un ritorno. Ecco, ora respiro, cammino, parlo, osservo, ascolto, penso, prego e rabbio, amo. Fiorista, tra la pelle, le spine, i profumi, tra le dita, l'aprirsi dei suoni. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Bravissima Susanna, bravissima, proprio si vede, ci tenevi moltissimo a questo pezzo, a cantare questo pezzo. Nel disco c'è un'introduzione tua, quando avevi due o tre anni? Sì, tre anni e mezzo, che è un pezzo del Festival di Sanremo, sì. Cantava Vin Magoggi e The Surf all'epoca. Esattamente, una volta si usavano i gruppi stranieri che cantavano in italiano al Festival, sì, di Sanremo. Come mai in un fiore questo pezzo che ti è venuto in mente all'epoca? Non lo so perché l'avevo scelto, non lo so. Fu una storia, ero a Viareggio e c'erano dei gabbiotti dove se tu infilavi qualche lira, tipo, e ti davano, tu cantavi e ti davano il vinile, no? Vinile singolito. Esatto. Allora i miei genitori misero degli spicciolini e io mi misi a cantare questa canzone. Ora, per l'appunto, io l'avevo... ovviamente rovinata, no? Insomma, però era voce sola, capito? Da, certo, sola, e facevo anche questo cambio di tonalità, l'ho preso, non so, non si sa come, e allora dopo ci ho costruito sopra, adesso con la fisarmonica, queste cose, ma tutto l'arrangiamento è stato fatto adesso. Esatto, e tu suoni oltre il piano, anche la fisarmonica suoni. Ma insomma, la suono. Beh, la suoni, la suoni, la suoni, la suoni. Ho iniziato a suonarla perché serviva a Baglioni, e nel tour, e allora è lì che ho iniziato a suonarla. Che tour di Baglioni, che anno? Oltre. 1992. Triplo album, mi pareva. Sì, infatti è stato tre vinili, ragazzi, tre vinili. Sì, una volta, sì, quando si usavano i vinili, ma si usano ancora adesso, è ritornato il vinile. Sì, era triplo album. Qualcuno l'ha giudicato un po' troppo dispendioso, non so, all'epoca il disco di Baglioni. Dispendioso anche, cioè, nel senso, troppo lungo, voglio dire. Ma lui fa queste cose super mega, no? Sì. Anche ora ha fatto questo piccolo grande Amore di Veduto è corretto. Sì, con tutte queste partecipazioni. Era un disco, per me, a mio parere, Oltre è stato uno dei più bei dischi di che lui di ha Baglioni, fatto. Secondo me, sì. Esattamente. Quindi la tournée di Oltre, a quell'epoca suonavi il piano là, e poi l'idea di fare fisarmonica, da fisarmonica e vocalist. Di fare da solista, com'è venuta l'idea di fare poi da solista? No, da sempre. Da sempre. Sì, è da molto prima. Io, l'idea era quella, solo che partendo da Firenze, senza, come si dice oggi, senza agganci, non avevo, i miei genitori sono stati operai, per cui non avevo né i mezzi economici né le conoscenze. In qualche modo dovevo entrare nel mondo, però io scrivo da tanto. A proposito di conoscenze, volutamente ti ho fatto questa domanda perché tra la biografia che tu hai scritto citiamo Vincenzo Micocci. Sì. E questo musicista è un personaggio straordinario, ha inventato Venditti e De Gregori, sì, praticamente il cantautorato italiano è nato, sì, con Micocci, sì. Parliamo un momento di Vincenzo Micocci e quello che ti ha detto. E se ti dico quello che mi ha detto, guarda, io ancora ce l'ho stampato in testa. Perfetto. Perché ero piccola, avevo 18 anni, proprio quando feci il tour di Gocciante. Lui è stato il mio primo discografico, il primo singolo l'ho fatto con loro, con la hit. Con di la hit, mitica hit. Vincenzo Micocci. Esattamente. Quello famoso di Forti. Certo, Vincenzo, quel discorso famoso di Forti. È vero. E lui mi disse, sai che io ti vedo come Paolo Conte. E mi disse queste parole. Tu avrai successo a 50 anni? Io ho detto, ma non sapevo, cioè da una parte mi aveva detto anche una cosa bella. Certo, sì, però insomma, parte, un po' prima. A 18 anni sentirsi un questa po' prima. Cosa. Sì, era un genio, sì, sicuramente un genio. Ha creato il cantautorato italiano. A proposito di Cocciante, tu hai detto una cosa su Marco Luberti, che è stato il paroliere di Cocciante, sì, per tanto tempo. È stato Luberti anche, Cocciante, Margherita l'ha scritta Luberti e Cocciante. È stato anche un mio produttore. Il tuo produttore. Prima di Vince. E tutte queste persone mi hanno, io devo dire che, ma io devo molto alla vecchia discografia, okay, perché adesso per un giovane oggi sarebbe veramente un problema poter fare la gavetta che ho fatto io, perché non esiste, no, cioè non esiste crescere un artista, cioè Vincenzo Micocci, capito, mi ha messo in contatto con Panella e con Luberti. E quindi mi capisci che soltanto la conoscenza. Esattamente. Soltanto... Panella, hai detto a scardinare il codice. L'ha, sì, scardinato con Battisti. Sì. Anche con te l'ha scardinato. Sempre. Sempre. Tu lo senti parlare. Sì, io le registrerei le sue telefonate perché è una cosa indicibile. Io gli dico sempre che lui è un libro. Lui no, non ha bisogno di. È lui, è un libro vivente. Certo, certo. E sì, scardinare il codice, perché noi viviamo immersi in questo codice, no? Del linguaggio. Il linguaggio è un codice sempre. E sarebbe bello in qualche modo, per certi versi oramai quasi recita questo linguaggio più che parlare, e in certi momenti è forse più sincero quando si scardinano dei codici. Questo però non deve essere una forzatura, non deve essere voluto. E quando in qualche momento, illuminati non so da chi, si riesce a dire quella parola che non ti verrebbe mai in mente di dire, e scardini o una frase o con, ecco, il senso di un... lì forse si riesce a comunicare davvero. Forse la musica in questo senso è ancora l'unico linguaggio che in qualche modo tocca, riesce a toccare quelle zone che forse dentro di noi abbiamo, di questo mondo indifferenziato che doveva essere l'origine, prima che la parola prendesse queste strade della struttura. Ecco. Perfetto, questo è Pasquale Pannella, ma tu hai detto un'altra cosa. Se Pasquale Pannella ha scardinato la voce, Mogol ha detto, hai detto un'altra cosa su Mogol, la voce è richiamo. Sì. Hai detto questo, cioè praticamente sì. È l'antitesi totale a Pasquale Pannella, Mogol. Mogol. No, l'antitesi. Antitesi di no, antitesi no. Nel senso che la rima c'è in Mogol, in Pannella non esiste la rima. È la rima non cercata assolutamente. Battistico Pannella è andato avanti, secondo me. Sì. Secondo altri, no. Però ha portato la musica elettronica, ha portato delle sonorità molto particolari, molto difficili, molto avanti rispetto ai tempi. Sì. È stato capito un po' meno. Ma sai, però i geni devono avere questo, secondo come dice, guarda, è una cosa che mi dice sempre Pasquale Pannella, sì. E mi dice: uno dei mali grossi del nostro tempo è la paura dell'impopolarità. Esatto, hai detto una cosa giusta. E questo crea una nebbia indistinta che non ti fa più capire niente, il bianco, il nero, la destra, la sinistra, la paura dell'impopolarità. Benissimo. Facciamo un altro pezzo da disco, cosa dici? Abbiamo scelto la traccia numero 3. La vuoi presentare prima o la presentiamo dopo? Presentiamo dopo. Presento. Ok. Fa niente. Se a volte mi è venuto in mente di potercela fare, che il vento gira rigirando, girasse a favore. Fa niente se poi la storia è un errore. Chi nasce così non articola parole. Mia madre era una schiava e io ne porto ancora il marchio. Baciava il pane secco prima di buttarlo. Fa niente se poi il sogno col tempo si trasforma. Niente, tutti perdiamo, me ce ne stiamo. posizioni erette, le posizioni erette. Fa niente. Tante sono le domande, forse a qualcuna ho dato risposta, ma non ho più paura, né fede né voglia. Da sola io venni, da sola riparto, così dissi alla vita e smisi senza rimpianto. Ok, ok, diretta rockway.alterrevista.org, ci potete sentire e vedere. Stasera abbiamo Susanna Parigi e la sua musica, il suo nuovo album, il suo quarto album. Parliamo del pezzo allora, Susanna, che è appena andato in onda. Fa niente, dai, è la storia di un suicidio. Però l'idea, c'è una parte piccolissima, è proprio piccolissima, nel finale proprio, certo, da una poesia di Edna Millet. Quando dice da sola io venni, da sola vado. Allora, ti hanno definito pop letterario, questa contaminazione bella secondo me. Non è brutto dire pop letterario, non è mica riduttivo secondo me. No, è purtroppo buffo. Tutti i critici hanno bisogno di una identificazione. È quello il motivo. No, è l'idea, no, perché insomma è inutile negarselo che qualche volta il pensiero in questa Italia, non so nelle altre parti del mondo, perché non ho molta, viaggio molto, però per capire bene un paese ci devi stare, ci devi vivere, per capire bene i meccanismi, no? Allora, in questa nostra Italia spesso non vince il talento, questo ma non parlo solo della musica. Della musica. Ora, il caso della musica, per dire anche il mio, vuoi sapere una domanda che mi viene fatta tutti i giorni? Io tutti i giorni ho sta domanda qua, o me la scrivono, o me la dicono per telefono, qualche persona che mi segue, i giornalisti, è questa. Come mai una come te, certo, non ha raggiunto magari un pubblico un po' più vasto, no? Ma io, guarda, io sono una piccola goccia, cioè io non conto niente. Cioè è più grave che negli ospedali magari ci siano ad operare certe persone invece che altre, o insomma ci sono luoghi ben più pericolosi della musica, insomma, dove non va certo avanti il talento. E allora a volte viene da dire, no, in una forma, come dire, cavolo, ci provo, cioè, pensavo in un certo... vedi, per esempio, un altro errore, no, che io ho commesso, lo devo dire, proprio l'ho commesso, di pensare per un certo periodo che bastasse, non dico neanche il talento, perché io potevo averlo, come non potevo non averlo, ma il lavoro, no, la fatica, il fare... E pensavo che questo bastasse, invece no, invece qualcosa... basta, no, per niente, invece ci sono le pubbliche relazioni, devi andare alle feste la sera, devi, certo, conoscere, cose che io ho sempre fatto abbastanza poco, insomma, devo dire, sono un po'... però diciamo che ho dedicato più il mio tempo a studiare che a fare questa cosa che è la mia passione, che magari invece in rapporti di pubbliche relazioni, ecco. Certo, a proposito della tua passione, adesso c'è il giochino, sono le 23.01 come da Rock Wave, da sempre facciamo i 5 dischi da portare su un'isola deserta a tuo completo piacimento. Mi dai 5 titoli, 5 input, quello che vuoi. Ti posso dire, per esempio, gli autori, ora non so se mi ricordo proprio il titolo. No, non importa, è solo un input. Il titolo, E allora, magari ti dico cose strane. Sì, dimmi, dimmi, dimmi, non ci sono problemi, dimmi. Allora, Angélique Kidjo. E chi è Angélique Kidjo? Un musicista francese, presumo. È una cantante africana. Africana, ecco, vedi. Sì, che però appunto lavora, è stata prodotta anche da Peter Gabriel, sì, quindi, insomma... Una che ha una voce... World music, praticamente. Una voce davvero vera, secondo decisamente me. Importante. E poi Irem. Beh, quello ci fermiamo un secondo. Irem, quando? Che periodo di Irem? Il nuovo periodo o il primo periodo? Senti, io se devo dirti la verità, a me mi piacciono un po' tutti. Tutti, però... perfetto, siamo d'accordo con te. Però... La nostra sigla è la sigla di Irem, quindi è la sigla che apre il programma nostro. Irem in tutti i sensi. Michael Stipe, sia all'inizio sia adesso praticamente. Poi per una forma di rispetto proprio, sì. Anche se non, magari non approvo tutte le cose, non è che tutto mi fa impazzire, però per una forma di rispetto io i Queen anche, per un certo tipo di lavoro che hanno fatto. Un grande lavoro, Brian May era bravo a suonare, bravo, è bravissimo a costruire, sì. c'era la frontman, c'era lui chiaramente, sì. Però dietro a lui chi c'era? C'erano dei musicisti di grandissimo livello. Davvero, poi porterei tipo Kate Bush. Ecco, Kate Bush, che periodo? Sai Kate Bush? Il primo periodo. Lo sai che è stata inserita nell'ambito della Amy da Dave Gilmour? Eh sì. È stato lui a inserirla là. No, lì è stata una folgorazione. La prima Kate Bush è stata una folgorazione. Le cime tempestose, piccola, ti hanno folgorato, sì, le cime, sì, tempestose sue. Sì. Bravissima, lei è bravissima, fa cose molto particolari. Io la avvicinerei a Bjork in alcuni momenti. Non so. Davvero, anche Bjork, anche ecco, è un'altra che... Bjork è qualcosa che ha nel tuo DNA forse, secondo me. In alcuni flash c'è Bjork. Il selvaggio. Il selvaggio, ma il selvaggio... Il selvaggio fatto bene, il selvaggio costruito con una certa tecnica. Bjork è molto brava. Già all'inizio con la sua band, i Sugar Cubes. Poi lei è andata un po' oltre, secondo me, in alcuni momenti. Certo. Io ci vedo bene anche PJ Harvey qua. Benissimo, vai. Ecco. Aumentiamo la discografia dell'isola. Sì, sì, va tutto. Queste robe qua che hai citato, guarda, vanno benissimo. Sono tutti dei DNA, dei punti che secondo, diciamo, me ci possono avvicinare. Che non porteremmo mai. Insomma, PJ Harvey è una musicista molto brava, molto al di fuori delle mode, al di fuori delle correnti. Sì. Un'altra al di fuori delle correnti, anche se ha avuto grande successo, è Patti Smith, secondo me. Scusa, ma quella ce la porto, vai. Faccio pure un monumento. Betty Carter, che non molti la conosceranno, la conoscono molti. Però per me è veramente una grande, che è riuscita ad uscire dalla tonalità e intonazione, sì, canonica, per girare intorno alle note. Esattamente. Mamma mia. E abbiamo fatto un bel parterre di voce al femminile, già, sì, importante, molto importante, che Patti Smith è un po' al di fuori. Because the Night è un successo planetario, ma Because the Night non è solo Patti Smith, ha fatto tante altre cose ben più difficili, ben più complicate, secondo me. Certo. Questi sono i cinque dischi, li ho detti io, ma li abbiamo detti insieme. È la prima volta che succede in Rockaway in 5 anni a sta parte, eh. Non è mai capitato. Questa commistione di intenti non è mai capitata. In scaletta adesso dovremo aprire un pezzo dal vivo, sì, mi pare. Okay. Questo è un brano che faceva parte del secondo CD Scomposta e il titolo è La decima porta. Perfetto. Cibo per te, perché tu abbia incontenibile fame di me. Sarò profumo per te, per poterti entrare fino ai pensieri. Sarò il bene supremo per te, per darti la soddisfazione di corrompermi. Sarò la decima porta per te, perché per darti tempo, amore, mi riempirai di rose e mi sussurrerai. Sarò sorella per te, perché tu abbia un amore incestuoso con me. Sarò grotta per te, per accogliere il tuo caldo fiume. Sarò fine di un sogno per te, quel sogno anche un po' infantile di essere buono. E sarò il nemico che lotta con te, sarò per farmi uccidere, ma questo amore che mi spalle con sarò un incanto segreto, un fiume di lava che scioglie il tuo gelo. Io sarò un rifugio segreto, un posto speciale, una nicchia di cielo. Io sarò, io sarò la mano per te, l'adolescente mano del tuo piacere. Mo sarò uomo per te, per poterti entrare fino ai pensieri. Sarò dolce bilancia per te di quanto pesa il desiderio di sentirmi. E sarò la lingua che arpeggia su te. Sarò come su corde tese sulle tue vene roche, come una musica. Io sarò canto segreto, un fiume di lava che scioglie il tuo gelo. Io sarò un rifugio segreto, un posto speciale, una nicchia di cielo. Io sarò, io sarò la decima porta per te. Sarò uno strumento antico, un canto immacolato. Sarò la lingua che arpeggia su te. Sarò come su corde tese sulle tue vene roche, come infedele amante, come una musica. Ladies and gentlemen, Susanna Parisi, ok. Bravissima Susanna. Grazie. Sempre molta forza, molto, molto movimento, molto pathos, secondo me. Beh, questo brano qua, sai, la storia di Apollinaire, no? Che scrisse queste due poesie quasi uguali per due donne all'insaputa l'una dell'altra. Sulle nove porte delle sue donne, insomma, e io ho immaginato, insomma, lascio immaginare quali fossero. Molto fisiche, ho così immaginato una decima porta invece anche non così soltanto carnale, ecco. Benissimo. E questo è tratto da un disco è il secondo album della tua discografia. Com'è stato, com'è il live di Susanna Parisi? Questo è un live acustico qui in radio, ma il live davanti al pubblico, come lo costruisci e che musicisti vi suonano? Questo, di solito ho un trio d'archi femminile, due sorelle che suonano viola, violino e una violoncellista giapponese. Benissimo. Poi ho un chitarrista che mi seguono da tantissimi anni, infatti stanno anche nel DVD dal vivo dello spettacolo teatrale che è uscito 2 anni fa. E poi ho il mio chitarrista, anche lui storico, Matteo Giudici. E poi un percussionista, di solito, a volte un batterista, però spesso un percussionista. Ti ricordi le date che farai o che hai fatto? Adesso, guarda, è tutto da definire perché stiamo organizzando il concerto a Milano, Roma, Firenze e Bologna. Come si può? Nel tuo sito? Te lo ricordi? Sì, sito è www.susannaparigi.it. Cosa ci troviamo dentro praticamente? Tutto. Sì, anche recensioni, discografia, sì, eccetera. Tutto quanto, sì. Le tue impressioni, la tua biografia, eccetera. La tua non biografia e la tua presentazione molto bella, molto articolata, in cui descrivi l'album praticamente, dai una spiegazione al disco. Fai capire, insomma, sì, un po' lo spirito, e se no anche su MySpace, eccetera. E che importanza ha avuto l'internet per te, per sviluppare, per farti conoscere di più? Ma per me ha una bellissima importanza, perché è un modo per veicolare alcune cose senza passare necessariamente dai soliti filtri. Quindi la casa discografica? Casa discografica. Radiohead permettendo? Esatto. Sono stati i primi Radiohead a fare questo discorso. Infatti. Perché loro potevano, qualcuno ha detto. Sì. Esattamente. Perché loro potevano. Però ecco, è un mezzo meraviglioso, anche di diffusione, che in altro modo tu non avresti. Certo ha un rischio, anche questo comporta un rischio. il rischio, intendiamoci anche su una cosa, sì, che per me non è affatto vero che la crisi discografica è dovuta alla masterizzazione da internet, perché se tu ben ricordi, e sì, tu mi devi rispondere a questa domanda, questa fa parte delle domande che a volte non si fanno. Negli anni 70-80 c'era la cassettina. Certamente. Tu copiavi i vinili, certamente, nella cassettina da, certo, tuo cugino che c'aveva, sì, il vinile. Sì, come no. Allora spiegami perché negli anni 70-80 si compravano comunque i dischi e adesso no. Come mai nessuno mi risponde a questa domanda? Io dico, dimmi, che non è come la coperta di Linus che tutti dicono le case discografiche, perché si masterizza da internet. No, è perché c'è una disaffezione del pubblico verso un prodotto plastificato. Perché io ti posso garantire che tutte le persone che mi seguono comprano i miei dischi. Ecco, vedi. Come me, come ci sono altri. Non so, per affezione, chiama la mia persona, chiama al mio mondo, a quello che... non lo so, però io credo che quando le persone hanno anche un senso critico, sembrerebbe, no? Certo. Per cui se tu gli proponi spesso degli album dove c'è soltanto una canzone in croce, dove un libretto risicato di 5 pagine, e poi lo fai pagare quanto lo fai pagare, la prima volta te lo compro, alla terza non te lo compro più. Oppure pubblica un album con 3 canzoni vecchie con uno inedito solo. Dove non c'è progettualità, mai, mai, perché si pensa soltanto al limite a Sanremo, ma no, finito quello, un artista è allo sbando. Non esiste, più totale, solo Sanremo esiste. Capito? Capito. Questa mancanza di progettualità ha fatto sì che le persone si stancassero di comprare certo tipo di cose. Secondo me, questo è il mio parere. No, posso essere sicuramente d'accordo. Giustamente una volta si facevano le cassette e nessuno diceva niente. Chiaramente c'erano i vinili, quindi c'erano come i vinili. Tra l'altro, scusa, mi perdonami se dico questa cosa. No, è giusto, siamo in un parterre aperto questo. A volte non tutte le persone le sa, come io, in certi ambiti, per esempio quello dell'economia, ahimè non capisco niente, invece bisognerebbe, gira tutto intorno a quello, quindi bisognerebbe essere molto preparati. E a volte le persone tutte le cose non le sanno. Io volevo dire questo: a volte si pensa a un regalo originale, a qualcosa da fare, no? Cioè, e pensi, ecco, io voglio dire questo con tutto il cuore: quando si regala un disco, un libro di una produzione indipendente, state sicuri che non regalate, che non permettete l'arricchimento né dell'artista né della casa discografica, no, ma proprio per niente. È vero. Permettete solo la sopravvivenza. Sono d'accordo con te. Ma le grandi major dicono: non facciamo incidere gli artisti emergenti perché ci costano e non abbiamo nessun utile, nessun ritorno. Sì, perché loro non contano, le multinazionali non contano proprio i numeri piccoli. No, assolutamente. È come nelle aziende, capito? C'è una vendita, ma non è giusto. Ma non a numeri eccezionali, proprio non la prendono. Invece tante piccole vendite, no, farebbero esattamente, la somma. Esattamente. E invece no, non la tengono in considerazione. Non la tengono assolutamente in considerazione e mettono da parte gli artisti emergenti che avrebbero la possibilità di far sentire la propria voce. Quindi ci sono le etichette indipendenti, e questo è importante. Sì. Le etichette alternative, le indie così chiamate. Sì. Come sì, la tua, la indie. Che è una sì, Promo Music. Io guarda, sono contenta di aver fatto il disco con loro, perché loro lavorano anche in teatro e portano avanti proprio un discorso di cultura ad ampio raggio con Augias, con tantissimi artisti come Monio Vadia, Antonella Ruggero, Riondino, certo, Odi Freddi, sì, sì, Margherita Acton, tante cose. Io sono veramente orgogliosa di essere con loro. Benissimo. Noi siamo orgogliosi di sentire un altro pezzo tuo al piano, allora. Indifferenze. Perfetto. Dall'album Indifferenze. Certamente. Passano gli schiavi e come hanno catene invisibili. Salgono da inferno e pietre, magri polmoni che respirano, polvere di ferro, nebbie di metallo, fianchi fieri e forti che cadono. Ci sarà un Dio che passa e che si ferma, ci sarà. Con un biglietto di seconda classe andate poi ritorno. ci sono più. Hanno lo sguardo di chi sta aspettando un treno che è in ritardo o che non passa più. Passano le dita intorno a fili e telai, le vedove di guerre vendono sorelle e figli, restano abbracci e seni inutili e sudano nei campi al canto del lavoro, poi cadono stanche con la morte accanto e ballano su discariche. Destini ballano con un biglietto di seconda classe, andata e poi ritorno. Noi giriamo il mondo gira a noi. Indifferenze di seconda classe che non sanno niente, occhi d'Occidente. Lungo i binari scorrono veloci, restano lo sguardo di chi sta aspettando un treno che è in ritardo o che non passa più. Blu Radio Rock Wave. L'onda del rock. Ok, diretta a rockwave.altarevista.org, ci potete sentire e vedere stasera in regia il nostro grande capo Checco Galante, Maurizio Calzavara al microfono e Susanna Parigi, la sua performance bellissima che durerà fino a oltre mezzanotte, chiaramente. Olà. È una cosa meravigliosa, secondo me. E ringraziamo anche dunque Giordano Girotto, che è stato quello che ha procurato la tastiera. È una cosa fondamentale, allora, anche questa. Ringraziamolo. Esattamente. Bene, Susanna, abbiamo parlato di questo pezzo che parteva da un album precedente e andiamo avanti. Musicalmente, com'è nato questo pezzo? Come si è sviluppato all'epoca, ti ricordi? Indifferenze. Esattamente. Indifferenze era tutto un progetto che si può dire che nasceva anche grazie a quello che mi aveva lasciato mio padre, no? Perché quando muore un genitore è sempre molto facile, no? Anche un po' banale, se vogliamo, scrivergli, no? Dedicargli una poesia, certo, una canzone. In questo caso, nel caso di mio padre, io lo vedevo come una figura quasi, come dire, universale, nel senso che mi aveva insegnato che le mani sporche sono mani bellissime, perché sono mani che hanno lavorato tanto. E quindi in questo senso era nato tutto il progetto di indifferenze, no? Quindi l'indifferenza come assuefazione e non attenzione nei confronti di qualcosa che ci sta oramai così vicino, no? E lo dimostrano per esempio i casi di Rosarno, no? Sì. Per esempio, e è una cosa che mi ha colpito molto, mi ha fatto molta tristezza, perché se tu pensi che nel 2005 io avevo fatto un video con Medici Senza Frontiere che avevano fatto una relazione sugli invisibili, li chiamavano, che lavorano nell'agricoltura, nel meridione, no? Questa relazione risaliva credo al 2003 se non prima, ma molto prima esistevano queste persone che vivevano in questa condizione di totale schiavitù. Allora io dico, possibile che se lo sapevo io non fosse giunto all'orecchio di qualcun altro? E qui passano i giorni, passano gli anni, solo che noi viviamo in case riscaldate e queste persone qui vivono in condizioni disumane, proprio disumane. Quindi era nato un po' per questo, per l'indifferenza che sentivo un po' intorno e anche per invece la cura delle differenze, perché come dicevamo prima, no, le collaborazioni, le differenze sono fonte di crescita, secondo certo. me. Certo, poi di collaborazioni, possiamo citare i musicisti di questo disco allora? E questo ultimo? Sì, esattamente. Allora, abbiamo tutto quanto. Prima cosa gli archè. Gli Archè String Quartet, di cui Carlo Cantini violino, Valentino Corvino, che poi ha fatto anche il disegno degli archi, ha scritto l'arrangiamento, Sandro Di Paolo e Stefano Dall'Ora. Poi Ivan Ciccarelli alle percussioni, io pianoforte, clavicembalo e fisa, e Matteo Giudice alla chitarra. Poi nella canzone dei Vecchi Amanti invece c'è l'arrangiamento di Vince Tempera degli archi e le mie ragazze del gruppo che mi segue da sempre, Alicia Aurora Bisanti e Yuriko Mikami. Benissimo, quindi abbiamo tutto il parterre della gente che ha partecipato a questo disco. Hanno partecipato, adesso si usa partecipare, uno suona un momento la tastiera, un altro suona il violino, poi c'è un assemblaggio in sala di decisione, oppure hanno partecipato tutti quanti assieme a te? Qui è un po' di... alcune cose le abbiamo fatte addirittura insieme. Di getto, praticamente. Sì, sì. Altre no, perché c'erano dei problemi proprio di assieme, perché per esempio ora non so quanto possa interessare, però no interessa dal punto di vista anche di costruzione. Perché no? Certo. Perché il pianoforte in questo disco è la base di tutto, no? Certo, sì. E io non mi sentivo proprio di fare tutto a click, perché il click comunque, cioè a metronomo perfetto dall'inizio alla fine della canzone, perché questo avrebbe imprigionato tanto. Cioè cosa vuol dire? Cioè che tu parti all'inizio con un tempo e finisci con quel tempo lì, e questo agevola molto nella registrazione. Certo. Perché poi tutti andiamo a quel tempo lì, quindi le sovrapposizioni è molto più facile, no? Sì. Farle. E io non mi sentivo, perché certi incisi avevo proprio bisogno di spazio. È uno spirito libero, giustamente. Ecco, un pochino anche, è un po' anche così. Quello. Mi viene in mente Bob Dylan, che quando sale sul palcoscenico praticamente distrugge tutto quello che era già stabilito dai musicisti. I musicisti lo conoscono, ecco, da tanti anni, però lui sale sul palcoscenico e scombina tutto quanto. E Bob Dylan, ma puoi farlo anche te, anche se non sei Bob Dylan. Io sono scomposta. Sei scomposta quindi... musicalmente, puoi scomporre, chiaramente. Hai capito? E allora magari mi mandano le imprecate. No, scherzo. No, lo capisco. I miei musicisti proprio siamo sulla stessa lunghezza d'onda, per cui lo capiscono molto bene. E però ecco, abbiamo mantenuto questi spazi di libertà all'interno, comunque, per esempio, di alcune strofe invece molto bene, anche perché doveva suonarci il percussionista, perché insomma dovevamo essere... Ma è bello così, c'è adrenalina, secondo me, non so se sei d'accordo. Cioè, non è uno scontro, è una presa di posizione. Perché deve essere tutto uguale? Si deve cambiare, si deve modificare nell'ambito della possibilità, anche se è un po' difficile dopo, perché avete dei tempi stretti, probabilmente. Bravo, te lo stavo per dire. Esattamente, lo so anche dal punto di vista economico. È quello. Tutto lì, perché più tu scombini e più c'è poi difficoltà nella sovraincisione, certo, e più perdi tempo, più i soldi vanno. È quello il discorso. C'è gente come Michael Jackson che all'epoca ci metteva mesi e mesi per fare una nota, ma era Michael Jackson, aveva determinate cose. Però, dimmi. Io ti dico che sarebbe il giusto modo di fare. Lo so. Poi ci accontentiamo, ci dobbiamo accontentare, ma sarebbe il giusto modo di fare musica, questo. Ma non ma allora il disco quando si potrebbe incidere, se va avanti ci così? Ci vorrebbero... Un po' di mesi, un po' sì, di anni. Anche un anno. Anche un anno, benissimo. Ok, mi pare che ci sia adesso una traccia dal disco, o sbaglio? La traccia, sì, numero 6, che si titola, vediamo... Il raro movimento. Il raro movimento. La sentiamo assieme e poi ne parliamo, va ok? Va bene. luce, più presto della bellezza, più presto della natura, si altera, si incrina e poi si asciuga, la realtà chiude il sipario, macchia la trasparenza, l'ideale che si appanna, l'incantesimo si spezza, la magia sparisce, ecco viene a galla, tutte le cose della vita sono in Radio. Dai colore alle tue frequenze. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Eccoci qua. L'ho sentita, secondo me, non so se sei d'accordo, Susanna, come un altro singolo. È molto melodioso. C'è la melodia che viene fuori, che si espande. Singolo non esiste più, siamo d'accordo. Però se esistesse, potrebbe essere un altro singolo. Se esistesse. Anche se non è vero che non esiste, esiste sotto altre forme praticamente. Questo è un testo che richiama un po' le cose dell'amore di Umberto Galimberti, no? Sì. Di questo libro che è uscito di Umberto Galimberti qualche tempo fa. Con Umberto Galimberti abbiamo anche scritto i monologhi insieme dello spettacolo teatrale Indifferenze. Come si svolge lo spettacolo teatrale? E quello spettacolo lì di Indifferenze era un alternarsi di monologhi e canzoni. I monologhi, sai, li faccio io in forma come sto parlando con certo. te, però era tutto scritto. Io non sono un'attrice, però era tutto, avevamo un regista, insomma era tutto ordinato, tutto ben predisposto praticamente. E tutto ruotava intorno appunto all'indifferenza e alle differenze. Caramente. È nata questa collaborazione con lui. In maniera, se ti dico come, c'è da ridere, perché io quando iniziò a scrivere su Donna di Repubblica gli mandai una lettera e lui poi si informò, gli mandai il disco e trovava appunto che certe cose di cui sentivamo questo erano abbastanza simili, lui in filosofia, io in musica, e allora ecco è nata questa, un pezzettino accordo. Di strada insieme abbiamo certo. fatto. Invece in questo disco qua, dicevo, c'è Corrado Augias, queste persone che io stimo tanto, nel video parli, nell'ultima traccia, nel video sì, della di questo ultimo album, nella traccia video, c'è esatto, nell'album è un promo, quindi ci sono questi contributi, una parte di contributi, invece tutti interi si possono vedere sul sito di Promo Music, e c'è appunto Corrado Augias che mi ha dato una mano, Lella Costa, Pino Arlacchi, Marco Travaglio, Andrea Pinkez, Leonardo Manera, anche lo stesso Caballà. E parlando tutti di, nel loro ambito lavorativo, di questo, di cosa sentivano riguardo l'insulto della parola. Infatti, per esempio, Augias ha parlato del pudore. Lella Costa ha detto una cosa molto bella, ha detto sarebbe bello se ciascuno di noi prendesse una parola e la adottasse e la curasse, se la tenesse cara. e invece appunto Marco Travaglio ha parlato un po' della manipolazione del vocabolario, mentre Caballà ha parlato anche di come nascono le nostre canzoni. Come nascono le vostre canzoni? A me interessa molto sapere il parere di Caballà, che lo trovo un musicista straordinario. Io ricordo i dischi suoi che ho a casa, li ho anche in vinile praticamente, in CD e in vinile. A proposito dell'insulto delle parole, noi litighiamo tanto. È bellissimo. È un rapporto molto... Ma è bello che sia così. Ma un, è bello, un litigio, sì, per creare qualcosa di, sì, positivo. Serve. Poi, sempre. Per, devo dire la verità, per arrivare in fondo davvero a un concetto, a un argomento, tu devi, devi arrivarci veramente in fondo e non puoi far finta. Mm. Allora devi scavare. Deve anche esserci una complicità e una fiducia totale. Non dico totale, ma quasi. Ma quando si chiude il pezzo, Susanna, per me va bene, tu dici, Kabbalah, se... per me va bene, guarda, si chiude così? Guarda, ti dico una cosa, dimmi. Io potrei fare un gioco con te, ti dico, io ti porto il mio testo, io, come ti ho detto, scrivo sempre, no, musica e testo, arrivo da Kabbalah con questo testo, io ti posso segnare in rosso le parti che lui mi dice che sono... da correggere, da modificare, che si possono migliorare, e io sono d'accordo. Perfetto. Sì, sono. Semmai dopo litighiamo su come, però sono sempre d'accordo. Ma chi decide poi alla fine? Decidete insieme? Io? Ah, decidite, perfetto. Senza ombra di dubbio. Decidita. Quando l'incisione doveva essere così. E siamo pronti, così a è stato deciso. Mi censura, capito? No. Ma è bello che sia così, secondo me. C'è una continua evoluzione, un continuo miglioramento, secondo me. Sì. Perfetto. Ci siamo adesso, mi pare che tu debba suonare. Sì, esattamente, mi pare. La canzone dei vecchi amanti. È bellissima, la canzone dei vecchi amanti. Che purtroppo non ho scritto io. Non importa. Certo ci fu qualche tempesta. Anni d'amore alla follia. Mille volte tu dicesti basta. Mille volte io me ne andai via. Ed ogni immobile ricorda in questa stanza senza culla i lampi dei vecchi contrasti. Non c'era più una cosa giusta, avevo perso il mio calore, tu la febbre di conquista. Mio amore, mio dolce, mio meraviglioso amore, dall'alba chiara finché il giorno muore. Sai tutto delle mie magie, io delle tue intimità. Sapevi delle mie bugie, io delle tue triste viltà. So che hai avuto degli amanti, bisogna pur passare il tempo, bisogna pur che il corpo esulti, ma c'è voluto del talento per riuscire ad invecchiare senza diventare adulti. Mio amore, mio dolce, mio meraviglioso amore, dall'alba chiara finché il giorno muore, ti amo ancora, sai, ti amo. Il tempo passa e ci scoraggia, tormenti sulla nostra via, ma dimmi, c'è peggior insidia che amarsi con monotonia. Adesso piango molto dopo, ti disperi con ritardo, non abbiamo più misteri. Si lascia meno fare al caso, scendiamo a patti con la terra, però è la stessa dolce guerra. Mio amore, mio dolce, mio meraviglioso amore, dall'alba chiara finché il giorno muore, ti amo ancora, sai, ti amo. Dall'alba chiara finché il giorno muore, ti amo ancora, sai, ti amo. We'll be right back. Ok, due cose su questo pezzo. Innanzitutto l'autore originale, lo dobbiamo citare, meraviglioso, grandissimo autore, Jacques Brel, fantastico, un caposcuola per tantissimi, non solo francesi, molti italiani, sì. Decisamente. Perché Jacques Brel? Perché hai scelto Jacques Brel? Per me rappresenta proprio quello che non è l'insulto delle parole, e cioè... non tanto una sincerità per forza, un'autobiografia per forza, un voler tirare fuori per forza questa intimità, trivellazione di vite private, no. Quanto invece una cura maniacale per la parola e cercare di arrivare in fondo al concetto che si vuole trasmettere, appunto a costo anche di non essere approvati. Benissimo. Perché a volte quando tu scrivi lo sai che poi ti leggeranno parenti, amici, che hanno di te spesso una immagine monolitica, no? Sì. E tutti pensiamo, ecco, questa cosa verrà letta da... E questo comunque è una prigionia, sono catene, no? Certo, ma sei stata emozionata a prendere, a plasmare un pezzo simile. Così importanza, sì, intanto grande importanza, impaurita anche, cioè impaurita, sì, nel senso plasmata, nel senso di impaurita, cioè avvicinarti a un pezzo simile da un certo senso. Eh sì, perché poi è stata anche rifatta da persone da come tanti altri, sì. Esattamente, sì. Era un po' pericolosa. Era un po' pericolosa, ma l'hai fatta bene, l'hai fatta con sentimento, con passione. E un'altra, la seconda cosa che c'è in questo pezzo, nel CD, c'è l'introduzione di Sempre, un altro pezzo di una grande protagonista. Sì. Forse dimenticata, sì. Si chiama Gabriella Ferri. Sì, infatti ti dirò che io amo, di italiano, amo queste due voci, Mia Martini e Gabriella Ferri. Due personaggi, posso dire, maledetti nel senso, sì, positivo del termine. Sì, sì. Gabriella, sì, Ferri e Mia Martini, considerata una che portava male a grano, una che portava sfortuna. Sì, gli è stato fatto molto male. Esattamente. Molto, sì. E però due donne vere, dal mio punto, io credo che la loro voce non mentisse in questo, cioè donne che hanno subito, cioè Mia Martini è morta povera, sì, si può certamente dire. Quindi che hanno dimenticata e povera, lasciata, sì, da una parte, sola, completamente sola, mentre Gabriella ha deciso di morire in un altro senso. Sì, quindi insomma erano voci, io credo che tante, quasi tutto può mentire. Una delle cose, qui mi azzardo molto, sì, molto, però una delle cose che proprio è difficile per chi ha sensibilità e intuizione, mentire è la voce. Sì, sono d'accordo con te, questo è verissimo, non si può, quello non si può. Possiamo citare un momento l'introduzione però, che sta, dobbiamo citarla questa, dai, forza. È l'introduzione sempre, che è cantata da mia mamma. E da tua questa mamma, voce esattamente. Così popolare, no, toscana. Lei viene da, sai, dalle ottave, no, toscane, dalle rime, dalla fisarmonica. Suo fratello suonava la fisarmonica. Questa popolarità, sì, questo gusto popolare. Toscano, esattamente. Sì. È questa voce sporca. E allora mi piaceva, non so perché ho fatto questo abbinamento fra Sempre e la canzone dei Vecchi Amanti, però mi sembrava che parlassero comunque di una grande passione. Esattamente, sì, perché due personaggi come Jacques Brel e Gabriella Ferri, c'è un legame... assolutamente non convenzionali, possiamo dire questo? Ecco, non convenzionale, diciamo così. Quello è non convenzionale, assolutamente non convenzionale. Poi ricordiamo che Jacques Brel ha introdotto tante cose, tante strade per tanti personaggi, anche italiani, sì, molto famosi, molto importanti. Grandissimo. Sì. Ok, adesso come si... abbiamo un altro pezzo, mi pare, per piano. L'applauso? L'applauso, c'è esattamente. C'è spazio ancora per... Ma sì, c'è molto spazio ancora, sono 23:41 e 10 secondi. Ok. Da forche dannati, gladiatori e polvere, ai grandi cori temibili di stati politici, da streghe sul rogo, tra indulgenza e santità, a passerelle anoressiche e mamme euforiche. Ecco il vostro applauso, l'eredità che percorre la storia sul le vostre mani, per carità, la fatica di battere. Miei signori, salite sul palco, è il vostro momento. Miei signori, risparmiate al mio nome il vostro consenso. Gobbi e giullari, tra miseria e nobiltà, ai ciarlatani mediatici, tra servi e complici, da nani e castrati, clandestini e umanità, ai nuovi maghi dell'anima, tra volto e maschera. Ecco il vostro applauso, l'eredità che percorre la storia. Sulle vostre mani, per carità, la parola può uccidere. Miei signori, salite sul palco, è il vostro momento. Miei signori, risparmiate al talento il vostro commento. Miei signori, adesso comincia il divertimento. Miei signori, e questo è il mio applauso per voi adesso. Per voi adesso. Blu Radio. Dai colore alle tue frequenze. Rock Wave. L'onda del rock. Posso dirti funambolica, un pezzo molto difficile, però sei stata funambolica, l'hai sviscerato, sei andato in un tono, poi hai cambiato l'altro tono, hai giocato sulla tastiera, hai saltellato. E così io la sentivo così, in questo momento 23:44. Perché così? Perché l'applauso deve essere così. L'applauso nella storia ha avuto il potere di uccidere, no? È vero. Perché l'applauso è una parola, no? Sì. Tu dai il consenso, come dire, sì, sei stato bravo, è una parola in pratica. Certo. Bisogna stare attenti, chissà, ora il vostro applauso è vero, accetto. Certo, sono d'accordo. Ma l'hai ironizzato però l'applauso. Sì, perché... È molto importante l'ironia, perché io dico, sai, dico, ecco il vostro applauso, no? Potrebbe sembrare che mi metto su, per carità, anche il mio, cioè, certo. Ci metto in mezzo, Al di là di questo, l'applauso, che cosa vuol dire per un artista sentire un applauso dopo un pezzo, dopo una fatica? I 3, 4, 5, 6 minuti, non importa il tempo, ma è una fatica suonare. Guarda, l'applauso inteso come pubblico ha una forza smisurata. Cioè, io mi sono trovata a fare, ti racconto questo aneddoto veloce. Ma certamente. Il DVD, a registrare il DVD a Milano al Teatro dell'Arte, no? E sono venuta, devo dire, da tutta Italia le persone, perché sapevano che era un'occasione anche importante per me. Ecco, io ti posso giurare che io sentivo questa cosa che partiva da me, arrivava a loro. Lo so che sembra una cosa, come dirti, romantica. No, è proprio un dato di fatto. E arrivava a loro e mi tornava indietro come forza, mi dava forza, e quindi mi ha dato anche la forza di sopportare questo spettacolo, che non era uno spettacolo normale, ma uno spettacolo dove se qualcosa andava male era un bel pasticcio, perché chi investiva rischiavo, in questo caso rischiavi, mai, sì, assolutamente. Cioè non si poteva ripetere. Ho capito. Quindi, una prova unica, bene. Paganini non ripete. Esatto. Chiaramente così. Quindi l'applauso ha questa valenza, e musicalmente l'hai costruito, l'hai modellato, l'hai allargato in questo settore, cioè una tonalità, un cambio di tonalità, una rincorsa, poi una fermata, una batteria, il batterista dice stop and go, tu l'hai fatta al piano, un stop and go, cioè ti sei fermata e poi hai sviluppato altre direzioni, altri momenti. Ma a volte si fanno delle cose, non si sa neanche perché. Questo è vero. Diciamo la verità. Beh, è vero, ma porta, l'ispirazione porta anche a volte questo. Scrivo e non mi sembra neanche di scrivere, dico proprio la verità, rileggo le cose che ho scritto, ma non sono l'unica, anche mi hai raccontato anche Umberto Galimberti, insomma, capita che rileggi le tue cose e non ti sembra di averle scritte. A proposito di ispirazione, non so se è grave, devo... No, assolutamente no, mi diceva, a proposito di ispirazione, tempo fa avevamo intervistato Finardi e lui aveva sempre un block notes e in treno, per cui lui ama viaggiare in treno, scriveva in continuazione i pezzi che nella mente correvano. Ma correvano nella mente. Ma tu devi vedere casa mia. Ecco, vedi, pieno di scritti, di fogli di carta. Fogli dappertutto. Tu puoi trovare fogli e penne. Infatti in casa mia non capiterà mai che dici, oh, non trovo la penna. No. Ovunque, perché capito, può venire l'ispirazione in qualsiasi momento. C'è chi usa il registratore, chi usa questo, quell'altro, però... Meglio che usare una penna, un foglio in di carta. In macchina uso sì il telefono, sì. No? Quando mi viene un'idea registro lì, ma in casa scrivo. Benissimo, adesso abbiamo la traccia numero 9, che da traccia numero 9 è una basta, mi pare. Sì, una basta. Esattamente, la sentiamo e poi ne parliamo e poi andiamo verso il finale del programma. Ma non è ancora finito, c'è qualche sorpresa. Homo sapiens. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Diretta rockwave.altervista.org, ci potete sentire e vedere stasera con Susanna Parigi, con questa performance in regia, il nostro grande capo Checco Galante, importante, fondamentale per la bella riuscita della trasmissione. Ok, abbiamo sentito questa traccia, la traccia numero 9. Io ho parlato di archi melodiosi stavolta. Anche prima erano melodiosi, ma erano melodiosi cupo, un cupo melodioso. Stavolta sono melodiosi senza essere cupi, secondo me. Sai, qui la storia, insomma, questa donna, questo frammento che ho visto su veramente 15 secondi, ma forse anche meno, in cui ho visto questa donna riversa per terra. Non ho capito né se era vittima di qualche ordigno, né se era stata stuprata, non lo so. Certo. Fatto è che c'era questa donna per terra e lì ho pensato che una basterebbe. Infatti tutti mi domandano: ma cosa vuol dire una basta? Esatto, sì, una basta. Una basta, nel senso che basterebbe quella donna, come basterebbe un bambino che muore di fame per capire l'assurdità di questo sistema. Come dice sempre, per citare Umberto Galimberti, a volte i grossi numeri ci tolgono la sensazione del dolore. Poi specialmente, ti sembrano statistiche, no? E tu perdi la sensazione della persona. In più, se questo dolore avviene in un'altra lingua, lo senti ancora più lontano. Certamente. Allora, adesso facciamo, diciamo delle cose fondamentali. Dove possiamo trovare il tuo disco? Ma guarda, un po' dappertutto, tutti i negozi di dischi, i negozi un po' più grossi tipo Fnac, Feltrinelli, certo. Ricordi, e poi sicuramente nel sito di Promo Music online. Quando avremo i tuoi concerti, potremo acquistare i tuoi concerti, chiaramente. Sì, sperando che ci siano anche da queste parti. Ma ci saranno sicuramente, speriamo di sì. Dobbiamo ricordare un momentino, un flash di musicisti nuovamente che hanno partecipato, così a grandi linee. Sì, gli Arché, esatto. E poi Ivan Ciccarelli e Matteo Giudice alla chitarra e Ivan Ciccarelli alle percussioni. La produzione di questo disco di chi è? La produzione artistica è mia, di Stefano Barzan, che poi è stato il fonico che ha registrato tutto, e invece appunto la produzione esecutiva di Promo Music. Perfetto. Grazie, 23:54 e 29 secondi. Abbiamo finito questa cavalcata bellissima dalle 22 alle 24 con la musica di Susanna. Grazie Parigi. A voi, tanto l'insulto delle parole, grazie a te che sei venuta qua, ci ha fatto omaggio. Grazie ad Agostino che che ci ha consentito di portarti qua. Cosa ci fai sentire per concludere in bellezza questo viaggio? Il regalo. E questo sarà un grosso regalo anche per noi. Buonanotte a tutti, grazie. Io avrei voluto un secondo, però non so se c'è tempo. Dai, c'è tempo. Fare una cosa per Ago. Guarda, io ti giuro, sono anni che non canto questa canzone, e non so, un pezzettino solo, e non so che cosa può venire fuori. Okay. Quindi perdonatemi, però è... Facciamo un flash, dai. Dal primo disco, la primissima canzone che ho scritto. Dimmi dov'è, dov'è, dove il cielo tocca piano il mare, lì si nasconde chi come me ama può amare, lei resterà con te. Se amare è impossibile, si muore nell'anima. Una stella cade dentro. Benissimo, bellissimo questo flash per ricordare il primo album. 23:56, quasi 57, grazie a Checco Galante che è stato il nostro regista. Adesso è il regalo nostro. Esattamente. Buonanotte a tutti, ci sentiamo la prossima settimana con Flavio Bilato e gli Sismica, un gruppo che purtroppo non è riuscito per un flash ad arrivare a Sanremo, ma lo faremo sentire noi. Buonanotte a tutti e grazie a Susanna. Buonanotte. attraverserò il tempo e chiuderò nelle mie mani il tassello più prezioso di un mosaico che nessuno ha visto mai, e poi ruberò i colori delle tele sconosciute, Caravaggi senza storia, te li consegnerò dentro la tua città sepolta. Spezzerò d'amore le catene, fammi sentire la tua lingua che sa tagliare, nella bocca attraversarmi le tue dita, la vocale al grido aprirsi, e poi soffierò le sabbie dai deserti, soffierò l'indifferenza dai tuoi sensi, sull'inquietudine impolverata che mi nascondi per la paura di bruciarti, e raggiungerò scomposta i bassi fondi della tua noia, le zone d'ombra e di follia, e prenderò di te quello che non è poesia. Vieni insieme a me, e l'alba sarà la fine della sete, sarà trionfo dell'istinto, il mio regalo, il tuo sublime sfinimento. Spezzerò d'amore le catene, fammi sentire la tua lingua che sa tagliare, nella bocca attraversarmi le tue dita, la vocale al grido aprirsi, e poi soffierò le sabbie dai deserti, soffierò l'indifferenza dai tuoi sensi, sull'inquietudine impolverata che mi nascondi. Vieni insieme a me, e l'alba sarà la fine della sete, sarà trionfo dell'istinto, il mio regalo, l'onda del rock. È mezzanotte e un minuto. Non solo acustico, chitarre, voci ed altro, in modulazione di frequenza. Un programma a cura di Maurizio Calzavara. Ascolto il legno instabile che scricchiola sul molo. La